Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Ed eccoci qua, buonasera, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati, questa è Nervature, io sono Addu. Oggi è lunedì 16 febbraio, 19 circa, scusate, forse devo ancora regolare meglio i volumi oggi, forse meglio ora. Ed eccoci, eccoci, appunto, lunedì 16 febbraio. Allora, scorsa settimana ho saltato, mi dispiace, avevo provato a annunciarlo in diretta proprio verso le 7, appunto verso le 19, che a causa di un imprevisto non sono riuscita a trasmettere. Quindi la puntata della scorsa settimana trasla a oggi, più o meno, perché in realtà vi dirò che ho dovuto fare dei cambiamenti a causa di tempistiche, poi vi dico. Però ecco, volevo sicuramente aprire questa puntata di nuovo ringraziando tutte quelle e tutti quelli che sono venuti al centro sociale Next Emerson il 2 febbraio, ovvero due settimane fa precise, perché era questo eventino che abbiamo deciso di organizzare con la radio tutta, ma un po' diciamo in occasione della centesima puntata proprio di Nervature, quindi di questa trasmissione qua. Quindi è stata una serata veramente carina, tante voci qui ai microfoni, sia ai microfoni che non, nel senso anche messaggi audio mandati a ascoltatori e ascoltatrici o messaggi testo. Quindi è stato molto partecipato, vi ringrazio. La radio ovviamente ringrazia tutta e speriamo di, dovremmo diciamo organizzare anche altre cosine prossimamente con la radio, appunto chiaramente ne sarete informate. Quindi la puntata di quest'oggi invece, oltre a questi ringraziamenti iniziali, si svolgerà un po' riguardo a vari argomentini. Come vi accennavo, per esempio, diciamo ho dovuto cambiare un po' la scaletta rispetto a scorsa settimana, perché vi avrei voluto dire scorsa settimana di una serie di iniziative tra conferenze, visite guidate che ci sono state in quel di Firenze, però era una settimana scorsa, appunto, ormai sono passate purtroppo. We'll be right back. Pratica di vita selvatica, se non scappo dalla città il pensiero non si radica, questa nuova etica Babilonia non si applica, non la guardo più la tele, ascolto solo nervature, yes people, qui Amparita MC representing manifesto animista, lunga vita nervature, lunga vita addu, yes people. Ed eccoci, quindi questo era un po' per concludere di nuovo i ringraziamenti per appunto la serata del centesimo di Nervature, appunto che è stato 2 settimane fa. Ah, ecco sì, infatti questa di oggi è la 101esima puntata, quindi 100 più 1. Ancora grazie davvero Amparito, quest'audio era super super super bello. E, allora, quindi vi stavo dicendo che settimana scorsa vi avrei voluto, diciamo, raccontare di qualche eventino che c'è stato in città e vi stavo parlando del Darwin Day. Il Darwin Day c'è ogni anno ed è semplicemente il giorno della data di nascita di Charles Darwin, che è il 12 febbraio 1809. A quanto pare, ovviamente non lo sapevo, non sapevo il giorno preciso chiaramente, però insomma ecco è stato un po' istituito quindi questo Darwin Day, vabbè insomma uno dei tante, delle milioni di ricorrenze annue che esistono, però ecco diciamo al di là del motivo è un pretesto che viene usato da tantissimi istituti, musei, università e comuni in generale, per parlare di evoluzione anche sia per come ne parlava Darwin sia in modo anche un po' più aggiornato, insomma ci sono state diverse scoperte nel frattempo e quindi ecco un po' un giorno che viene usato un po' per parlare di nuovo di scienza, di evoluzione e di studio. E quindi le diciamo cose che avrei voluto pubblicizzarvi per appunto settimana scorsa erano una visita guidata all'orto botanico qui a Firenze, con poi conseguente visita sempre guidata invece al erbario centrale italiano. Ovviamente ve ne volevo parlare perché la puntata prima, quindi a questo punto 3 settimane fa, abbiamo appunto proprio parlato dell'erbario centrale italiano e del fatto che è iniziata quasi terminata la digitalizzazione di tutti i campioni dell'erbario. Vabbè, forse era scontato a questo punto, comunque il punto è che sono riuscita io ad andare a queste 2 visite guidate, molto molto interessanti. E per diciamo riportarvi un po' il succo della questione, collegandosi appunto alla puntata già fatta 3 settimane fa, la digitalizzazione è quasi terminata, o meglio a livello diciamo pratico è terminata, però ancora manca tutta una serie di passaggi più diciamo amministrativi e tecnici riguardo a proprio creare un portale per consultare tutti questi campioni, quindi non abbiamo una data annunciata per il termine di questo processo, però quando ci sarà sicuramente ve lo comunicherò. E allora a questo punto, prima di iniziare a entrare un po' negli argomenti di oggi, comunque vi preannuncio una puntata molto tranquilla e a chiacchiera, vi mando un bel pezzaccio, sempre Lio Cesari, che in realtà stavamo già ascoltando in sottofondo, ma questa è una traccia un po' più movimentata, mettiamola così. toi? Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain? Et toi? Tu veux coucher avec moi? Alors tu veux? De demain? C'est les zizi des mecs. Thank you. E questa era La Beguine du Mac, Lio Cesari, molto carina. Ed eccoci di nuovo, quindi tornate in voce, questa è Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio e biologia botanica e chissà cosa capiterà poi. Siamo su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Andate a spulciare il nostro sito radiowombat.net. E da cui trovate un sacco di informazioni belle e utili, tipo tutti i podcast delle nostre trasmissioni, tipo la sezione dei contatti, da cui scoprirete come appunto mettervi in contatto con noi e un sacco di altre notizie interessanti. Che dire, per questa 101esima puntata di Nervature, volevo iniziare un po' a farvi sapere dell'esistenza di un portale e app, quindi c'è sia la versione, diciamo, browser che appunto l'applicazione per telefono, che è un portale che si chiama Urbaflor e serve alla identificazione di piante spontanee della flora italiana. È un progetto che è stato portato avanti da una serie di università, tra cui quella di Pisa, abbastanza in prima linea, con Lorenzo Peruzzi, curatore, e scusate, Jacopo Franzoni, anche appunto, curatore del progetto. E è interessante perché è un portale o applicazione, come vi dicevo, un po' diversi da quelli a cui siamo abituati ora. Quindi, probabilmente molti di voi conoscono PlantNet, per esempio, o altrimenti Google Lens, che sono due modi diversi per, fra virgolette, identificare le piante, e non solo le piante, però usano, diciamo, dei metodi non strettamente legati a un ambito di studio, diciamo, sistematico. Quindi, in particolare PlantNet, lo saprete già probabilmente, si fa una foto e quella foto poi verrà messa in modo, diciamo, disponibile in modo pubblico e qualcun altro potrà dire: "Ah, secondo me questa foto rappresenta questa pianta X." Più persone avvalorano questa, diciamo, questo riconoscimento e più allora c'è la probabilità alta che sia quella pianta lì. Però si tratta di appunto un consenso un po' popolare, il che può a volte lasciare spazio anche a errori. E ho tra l'altro, diciamo, testimonianze di persone esperte in certi ambiti, magari in una famiglia specifica di piante, che l'ha usata un po' come questa app, dicendo: "Guarda, per questa famiglia non funziona, c'è poco da fare." E mi sto riferendo alla famiglia delle rose. Scusate, non proprio alla famiglia, non sono tutte le rosacee, ma diciamo all'ambito delle rose da fiore, arbustive. E quindi tutto questo per dire che queste app non sono sempre affidabili. O meglio, non sono da ritenere uno strumento super affidabile. Io comunque continuo a dire che sono molto utili, nel senso che se uno non ha una minima idea di che cosa potrebbe essere, ci sta che possa darci una serie, perlomeno almeno due o tre strade da approfondire, da seguire. Google Lens invece, anche di nuovo, anche questa magari la conoscete, ma si basa sempre sul riconoscimento di immagini, in questo caso fatto non da altre persone, ma da computer, probabilmente intelligenza artificiale, di preciso non lo so, e quindi è proprio una corrispondenza di pixel, diciamo, che quindi si può rivelare a volte anche più utile rispetto a PlantNet, o meglio, viene usato un po', si può usare un po' in modi diversi. Detto tutto questo, però, per ritornare invece a quello di cui vi parlo oggi, ovvero Urban Flor, questo è un po' un concetto diverso proprio, tant'è che è stato proprio creato da università, appunto, che si occupano di botanica e anche di sistematica. Per leggervi un attimo le parole di uno dei curatori, appunto Lorenzo Peruzzi, dice: "Rispetto ad altre app di identificazione che analizzano le immagini tramite reti neurali fornendo soltanto una probabilità di riconoscimento, Le chiavi di identificazione sviluppate in questo progetto, pur restando interattive e semplificate, si basano su un impianto scientifico più rigoroso. Si tratta infatti di una sequenza di scelte successive tra coppie di affermazioni contrapposte, riferite a caratteri morfologici osservabili nei diversi organi e nelle varie strutture delle piante. Ci chiediamo come mai questa app Urban Floor funziona in modo così tanto diverso. Beh, un po' diverso, diciamo. Sempre per leggervi altre parole appunto del curatore, dice: l'uso di questi strumenti induce anche l'utente meno formato a divenire un più attento osservatore delle caratteristiche delle piante, contribuendo in modo efficace a far percepire, tramite l'esperienza diretta, l'enorme diversità esistente nel mondo vegetale, spesso trascurata o sottovalutata dai cittadini. E quindi, come mai? Il punto di questo portale, di questa app, è che per identificare una pianta ci fornisce un metodo di chiave dicotomica. Quindi questo è uno dei metodi con cui, quello principale, con cui i botanici riescono a identificare appunto se è una specie o se è un'altra, quindi ci possiamo aspettare che, è un metodo, che sia un metodo molto accurato. È classicamente usato per le piante delle varie flore spontanee. Dico questo giusto per dire che, per esempio, nell'ambito delle piante ornamentali d'appartamento o anche da terrazzo, insomma quelle che diciamo comunemente compriamo nei vivai, lì si entra in un ambito ancora molto più specifico che arriva a toccare proprio le varietà, quindi non è solo il genere, la specie della pianta, ma spesso e volentieri un vivaio potrebbe avere 20, 50, centinaia anche a volte di varietà di quella stessa specie. Quindi non è per spaventarvi questo discorso ovviamente, però per farvi insomma inquadrare un po' diciamo tutto l'ambito della enorme diversità vegetale che esiste oggi. Quando si parla di specie, di varietà, o meglio di cultivar, ovvero delle varietà diciamo selezionate manualmente diciamo dall'uomo, dall'umano, si parla molto spesso di differenze anche molto piccole. Per esempio, ora se si va in un qualsiasi garden o vivai si trova un miliardo di ciclamini diversi, tutti in fiore, tutti colorati. Ognuno di quelle differenze di colore è una cultivar diversa, quindi capite che la pianta, beh, normale, è la solita, però il colore ha una sfumaturina un po' più così o un po' più cosà. Quindi esistono così tante cultivar perché c'è dietro un obiettivo commerciale. Quindi questo è un po', diciamo, appunto, come dicevo, per avere un po' una visione a 360 gradi della diversità vegetale. Invece, quindi, questo portale di cui vi parlo, essendo che utilizza le chiavi dicotomiche, diciamo di solito si ferma a genere, specie o al limite qualche varietà. Questo anche perché si diciamo, occupa di flora spontanea, quindi ciò che naturalmente da noi esiste e si riproduce in modo autonomo e non diciamo, coltivato o non per forza coltivato in vivaio. Quindi, che cosa sono queste chiavi dicotomiche? Arriviamo a spiegare cosa sono, ve lo starete chiedendo da un po'. Allora, le chiavi dicotomiche si basano sul principio proprio della dicotomia, che come si può capire un po' dall'etimologia della parola, è una divisione in due gruppi. Tipicamente uno di questi gruppi ha una certa caratteristica e l'altro gruppo non ce l'ha, quindi se noi apriamo il nostro PDF, insomma, il nostro fascicolino delle chiavi dicotomiche della, non so, degli arbusti, alberi e arbusti della flora toscana, per esempio, ci saranno una serie di, diciamo, domande che ci chiedono: è una pianta con le foglie opposte? È una pianta con le foglie alternate? Chiaramente noi dobbiamo essere in grado di capire cosa significa opposto o alternato. Però una volta che lo capiamo possiamo decidere, ah sì sì, vedo il campione qua davanti, vedo l'alberino qua davanti, ah sì sì, queste sono foglie opposte, ok. E da lì poi mi dice, ok, se sono foglie opposte allora vai a vedere la domanda al numero, non so, 22. Vai, scendi giù, vai al numero 22, ci sarà un'altra domanda. Ok, erano foglie opposte, ora ti chiederà, non lo so, hai il margine seghettato? Hai il margine liscio? E allora devo sapere cosa significa seghettato e liscio, in questo caso, vabbè, si capisce, ci si può immaginare. E allora mi dice, ah sì, è seghettato, ah ok. Allora andiamo a vedere, mi dice, se è seghettato, vai a vedere la domanda al numero 27, vai al 27 e continui così. Quindi, appunto, questa dicotomia di domande. Tutto ciò è parte integrante appunto del processo di identificazione proprio delle varie specie. si parla di piante, ma si parla anche di animali. Ora io chiaramente mi stavo concentrando sulle piante, ma tutta la sistematica del mondo vivente si può, diciamo, analizzare sotto questo principio della dicotomia. E, quindi, ecco, facendo un altro esempio, magari la domanda può essere: è provvisto di ossa, quindi, oppure non è provvisto di ossa, quindi si sta parlando di un vertebrato o di un invertebrato. Quindi questo è un po' come funziona. Per parlare di quello che ci interessa a noi, quindi di piante, vi dicevo appunto che è necessario avere un minimo di lessico, diciamo, della sistematica riguardante appunto le piante, la flora. Come ogni cosa che riguarda le piante, in realtà è molto ampio questo lessico, quindi c'è tantissimi termini in realtà che troverete scritti nelle chiavi dicotomiche, però partendo dal fatto che alcuni di questi sono abbastanza intuitivi, altri meno, comunque sono cose imparabili sicuramente. Quindi diciamo che sono uno strumento molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, soprattutto adesso con i vari riconoscimenti di immagini automatici, eccetera, che però non è solo uno strumento, ma ci permette, diciamo, anche di avere un apprendimento nostro in prima persona. Ecco, per non appunto abbattervi, sappiate che questo portale qua in realtà aiuta nell'utilizzo e anche nella scoperta, diciamo, di questo strumento che sono le chiavi dicotomiche, perché mette banalmente delle foto, quindi è facile. Per esempio, ora stavo facendo un po' di prove, ce l'ho qui davanti e ero arrivato a un punto in cui mi chiede: è una pianta... No, aspettate, vado alla pagina prima perché c'è termini un po' troppo specifici. Mi chiedeva, ecco, piante con foglie verdi evidenti oppure piante senza vere e proprie foglie. E tra parentesi, foglie ridotte a squame giallastre oppure trasformate in spine o sostituite da fusti modificati. Che cosa avete capito voi di questa seconda domanda? Nulla, perché è strano. E che vuol dire senza vere e proprie foglie? non è ben chiaro, ma ci aiuta perché sopra c'è una serie di foto che ci danno un po' un'idea di quello che voleva intendere. Quindi, rispetto alle chiavi dicotomiche che si trovano da internet, che comunque vi invito a scaricare e a provare a usare, questa qui è anche un pochino più semplice, ecco, ci dà un po' di strumenti appunto per imparare meglio. Quelli che ci stiamo ascoltando qui in sottofondo sono i Kruder and Dorfmeister. Non so bene come si pronunciano, ma più o meno così credo. Yeah. fatto. Pronto. Oh. Sa, sa, sa. Eia. No, no, no. Forse, forse è. Là. Scusate, falso contattino al microfono. Yo, rimetto un attimo i volumi che abbiano un senso. Ok, scusate, falso contattino al microfono, succede. Sì, ecco, niente, solo per concludere quindi questa questione del Urban Floor, si chiama questo portale. La cosa interessante da sapere, diciamo, che è un po' un peccato, è che non c'è per tutta la flora italiana, o meglio, è specifico di alcune città. E quindi c'è quella, la flora di Palermo, Roma, città di Trieste, Milano, Pisa, Gorizia e Empoli. A Firenze non c'è. Però se voi comunque volete... via sto microfono, è terribile. Devo metterci il cappuccino. Vabbè, se voi volete comunque provare a riconoscere un po' di piante della nostra flora fiorentina, vi consiglio comunque di usarlo, perché la flora spontanea nostra non è tanto diversa da quella di Empoli o quella di Pisa, per cui può comunque funzionare per l'identificazione. Ma questo portale non serve soltanto a riconoscere, serve anche, volendo, se uno vuole, a segnalare. E quindi c'è anche una parte legata alle segnalazioni, è necessario registrarsi, fare il login, eccetera. E quindi poi appunto si può dire, ah sì, io ho trovato questa pianta in questo posto. Quindi se vi sentite abbastanza sicure di voi stessi e stesse, lo potete fare. Perché no? In ogni caso io intanto lo suggerisco per l'identificazione. Ultima cosina riguardo a... sì, esatto, solo sull'app e non sul portale del browser c'è in realtà un'altra pagina dove c'è semplicemente un elenco delle specie. Questo può servire perché magari volete sapere qualcosa in più rispetto, non so, all'iperico che trovate a giro nei campi o alla verbena officinale o insomma una pianta che già conoscete o che comunque di cui perlomeno conoscete il nome. E quindi ecco, avete tutto un po' un elenco piuttosto fornito, piuttosto grosso di specie, e aprendo ogni specie potete vedere qualche foto e poi potete segnalarlo. Quindi questo è anche un altro dei modi con cui potete riuscire a segnalare alcune piante. quello che abbiamo sentito. Sì, no, vabbè, userò l'altro microfono, via. E quello che abbiamo sentito quindi era l'album G-Stoned dei Kruder and Dorfmeister, chissà come si dice. Ora, vabbè, magari vi faccio sentire un po' un altro pezzettino un pochino più movimentato e poi andiamo a sentire un'altra cosettina dopo, un altro piccolo contributo e poi penso che sfumeremo nel chill questa sera e ci ascolteremo ancora un po' di musica insieme. Thank you. Quindi abbiamo ascoltato Gerardo, non so, Frisina. Questo era Blue Latin, questo album, cioè questa prima canzone dell'album. Vi vorrei mandare quindi un contributino. Di cosa si tratta? Allora, una cosa che non abbiamo mai sentito qui a Nervature, perché infatti l'ho scoperta da poco. E di cosa si tratta? Perdonate l'audio terribile di questo microfono. Allora, si tratta del vivaio Taroni, che è un vivaio che vende soprattutto rose, ma anche arbusti e altre piante, in quel di Roma, che sul loro sito internet hanno una sezione veramente, veramente, veramente carina, che si chiama banalmente Storie, quindi molto semplice e conciso. Ne pubblicano una ogni tot e si tratta di solito di episodi simpatici, molto simpatici, che a quanto pare li capitano con i clienti e le clienti nel loro vivaio. Quindi ho deciso di leggerne qualcheduna, oggi ve ne faccio sentire una, facendo un po' una selezione su quelle che mi sembravano le più divertenti o le più buffe e interessanti. Però ecco, diciamo, vi invito ad andarvele a leggere un po' tutte se vi stuzzica come argomento, se vi piace, anche perché tra l'altro sulla pagina, sul loro sito, c'è anche, oltre alla storiellina raccontata, una foto al lato che spesso e volentieri è ancora più divertente, non che essere utile, perché magari fa vedere in foto la pianta di cui si sta parlando. Detto questo, un piccolo disclaimer, scusate. Come sapete, io non sono un'attrice di teatro, per cui quando leggo cose provo a fare del mio meglio, chiaramente si potrebbe fare meglio. Dico questo perché le storie che vi leggerò sono sempre dei dialoghi, quindi tra due persone. Spero che di essere riuscita bene o male a interpretare un minimo, appunto, le due voci, diciamo. Quindi vi farei sentire la prima, che hanno intitolato Le trombe della morte. Vediamo se parte, scusate. Sì, dovrebbe partire. Le storie del vivaio Taroni. Le trombe della morte. Mamma mia, quanto è bella, è meravigliosa! Adesso che finalmente ho una casa con giardino, è sempre stato uno dei miei sogni, ma veramente, io non posso. E perché? Ma come, non lo sa? È una pianta pericolosissima, è conosciuta anche come le trombe della morte. Ma, io la conoscevo come le trombe degli angeli, non so, mi sembra più poetico. Perché le sue foglie contengono alcune sostanze tossiche come la scopolamina, atropina e iosciamina. Davvero? E che sono? Ora di preciso non lo so, non sono mica una chimica, ma mi piace essere informata. Le sue foglie, se sono ingerite, possono portarti fino alla morte, lo sa? Ah, no, non lo so. Però stavo riflettendo. Ecco perché non sono ancora morto. Io tutte le sere ci ficco dentro il naso a lungo per godermi il profumo. No, è un'esperienza olfattiva inebriante. Ma le foglie no, le foglie non le ho mai assaggiate. Lei pensava di farlo prima di essere informata? Cioè, scusi? No, dico, pensava di mangiarle prima di scoprire quelle tre cosacce che ha nominato? Io, ci mancherebbe! Però può capitarti di toccarla o di maneggiarla, o magari, non so, inavvertitamente grattarti le orecchie, storpacciarti gli occhi, passare le mani tra i capelli. a quel punto stecchito rimani, può capitare, certo, perché no? Ma io la tocco sempre a mani nude, anche quando la poso. Ringrazio il cielo, allora. Finora è stato fortunato. Magari è fortunata anche lei, Sofia. Non si neghi questo bel sogno. Ma non è per me. Io posso pure stare attenta. Il problema è che ho due gattini. Qui in vivaio ce ne sono 16 di gattini. Nessuno di loro è mai stato morto con le trombe degli angeli, gli dico. E vabbè, i suoi gatti sono cresciuti allo stato brado, si vede, ma i miei sono sempre vissuti in appartamento. Beh, tutti i gatti sanno per istinto che cosa è pericoloso per loro e cosa no. In più, tra l'altro, ho anche una bambina di 18 mesi che ama mettere tutto in bocca. Come lo sa? L'ho già sentito mille volte. quindi... Sì, oh, eccolo, scusate. No, no, no, non va via. Allora, si capisce, qui con questi microfoni oggi è complesso. E quindi, ecco, avete sentito una delle storie del vivaio Taroni, appunto. Spero che vi sia piaciuta. Ne sentirete altre nelle prossime puntate. Però comunque, se già vi volete divertire a leggerli in anteprima, vi metterò nella pagina del podcast il link, appunto, per accedervi al loro sito, al loro blog. Io direi sentiamo un'ultima canzone e con questa vi saluto. Ci sentiamo Safia Tu di Mama Sissoko e ci risentiamo quindi come sempre ovviamente con Nervature lunedì prossimo alle 19 circa. Rimanete comunque connesse sulle nostre frequenze che tra l'altro non ho detto essere le 13.59 delle AM nell'area fiorentina, ma anche se no tramite lo streaming ci potete ascoltare ovviamente dal nostro sito, come sempre lo sapete, radiowombat.net. Io vi saluto, ci lasciamo con quest'ultimo pezzo e niente, state con noi sempre. fils à